fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Proseguono le trasmissioni in diretta anche per oggi, 13 giugno del 2018, e lo facciamo con prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì sera. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22:30 circa. Si va a salutare Alessandra qui da Roma, come da Roma il buon Like Wake, Stefano Di Serio. 0649 1750 contatto telefonico, sito internet www.ondarossa.info per sentire lo streaming con un computer e naturalmente per leggere le corrispondenze, le notizie, le trasmissioni sul sito stesso. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Questo spazio ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani, oltre che sul sito, verrà pubblicato il podcast e la playlist. Salutiamo Raffaele Pezzella, collaboratore diciamo a distanza di questo spazio, ci sta ascoltando da Napoli. Il palinsesto prevede alle 22:30, 25 o'clock. Iniziamo con questo lavoro diviso a metà tra Isaac di Fabrizio Matrone e Coagulant di Fabio F.K. John. Si chiama Trees, Lucifer Transit Over Jupiter, e proprio Lucifer Transit Over Jupiter è la parte riservata a Fabio F.K. John. Anche lui, insieme a Fabrizio, in passato collaboravano anche nei Matter. Ci andiamo ad ascoltare questo lungo drone ambientale dal nome Conjunction, eccolo qua, Coagulant. la glaciale e siderale ambient di Fabio F.K. Drone, attualmente vivente a Londra. Coagulant, la sua creatura più rarefatta, che prende una netta distanza dalle sonorità più elettroniche che condivideva in passato insieme a Fabrizio Matrone nei Matter. Salutiamo intanto Riccardo da Taranto, Antonella dalla Sicilia, Fulvio dei Solar Lodge, e magari un giorno sentiremo anche i Solar Lodge, progetto storico qui di Roma. E magari Fulvio, se ci manda qualcosa, volentieri saremo contenti di mandare e di risentirci i Solar Lodge anche qui a prove tecniche di trasmissione. Tris, Lucifer Transit over Jupiter, quest'ultimo proprio, Lucifer Transit eccetera eccetera, è la parte riguardante la musica di Coagulant, un album che è uscito nel novembre dell'anno scorso con la Subsidence, etichetta di Fabrizio Matrone. Abbiamo salutato Raffaele Pezzella e proprio di lui, attraverso il suo progetto Sonologist, andiamo un po' a conoscere questo Silencers The Conspiracy Theory Dossier, un suo ultimo lavoro che credo, e lui a questo punto mi potrà correggere, sia stato già stampato in passato, ma la cosa importante è che in un certo senso, se è stato ristampato, lo fa con la Cold Spring, un'etichetta inglese assai famosa nel campo dell'ambient e dell'industrial in genere. Album che in parte riprende queste sonorità così rarefatte, ma qui vengono anche ulteriormente arricchite da segmenti noise. Un album che parla di voci provenienti dallo spazio, di CIA, di notizie segretate, e da questo Silencers ci andiamo ad ascoltare un paio di passaggi Monotape e Nocturnal Anomalies. Ancora Sonologist di Raffaele Pezzella, questo è Silencers, ultimo lavoro per Cold Spring. Nocturnal Anomalies, Onda Rossa 87.9. Thank you. Silencers, The Conspiracy Theory Dossier, l'ultimo lavoro per Sonologist di Raffaele Pazzella, instancabili ricercatori di musiche altre, ci ha deliziato in tutti questi anni, sì, perché sono già qualche anno che si collabora, succosissime compilation di paesi anche improbabili, tra virgolette, tipo l'Iran, che mi ha particolarmente colpito, che è proprio la Nespresso Sounds compilation che riguardava l'Iran è stata stampata al pari di questo album per la Cold Spring Records. Un album che si avvale questo di campionamenti registrati in Spagna, esattamente nelle Asturie. Rumori naturali, ma anche di impianti industriali, naturalmente. Insomma, uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni, il nostro Raffaele. Intanto salutiamo anche Tatiana, che ci ha raggiunto, tra virgolette, in ascolto. Nicola dalla Sardegna, Carlos Silva da Mexico City, lo salutiamo. E dunque questo qua, Silencers, lo ascolteremo anche la prossima settimana. Un saluto al buon Raffaele. Abbiamo iniziato con due novità e adesso invece torniamo indietro nel tempo e anche di molto. Approdiamo al 1982. Tuxedo Moon con Divine, un ennesimo passaggio di questo bel lavoro, come tutti quelli dei primi anni 80 di questa formazione californiana. Ricordiamo ancora una volta un disco usato per un'installazione, per un balletto, una colonna sonora per un balletto, quindi qualcosa di sicuramente affascinante. Da Divine ci ascoltiamo Camille e Friendless Gasse. La genialità dunque dei Tuxedo Moon, uno degli aspetti più validi della New Wave degli anni 80 e soprattutto in quegli anni, negli anni 80, secondo me c'è stata la produzione migliore per Tuxedo Moon. In questo disco c'era Steven Brown, sassofono, tastiere, clarinetto e voce, Blaine Reininger, violino, viola, voce e tastiere, il magnifico basso che ha veramente dominato questo ultimo brano, questa Fraudulous Gas, chitarra, basso e percussioni, Winston Tong la voce. Il tutto per un balletto, per l'appunto Divine di Maurice Béjart. Noise. 21:43, torniamo un po' più vicini a noi e lo facciamo con un altro, con un lavoro altamente visionario di Blood Axis e Le Joyeux de la Princesse. Absinthia tetra, e d'altronde si parla dell'assenzio con gli annessi e connessi della questione. Un album che uscì parallelo alle Folies Vertes, almeno per quanto riguarda la trattazione. Ebbene, questa sera ci andiamo ad ascoltare proprio La Folie Verte, La Beveuse e Absinthia tetra, la title track di questo lavoro. Thank you. dominion of sin, godless. For a little while, not forgotten. L'alto contenuto lisergico e visionario e i begli ori sinistri emanati da questo Absinthia Tetra, un vecchio lavoro per la Atanor, etichetta francese, del 2004 per Blood Axis e Les Joyeux de la Princesse. Ne sono letteralmente rapito, è un po' che non lo risentivo e scopro ogni volta degli angoli veramente misteriosi e degli abissi nei quali immergersi. Bellissimo album. Intanto con il buon Riccardo si parlava dei Tuxedo Moon, di come lui li avesse visti qui a Roma nel 1981 addirittura. Io qualche anno dopo, credo 2 o 3 anni dopo invece, a un altro locale che allora si distingueva per ottimi live, che era il Palladium, in quel della Garbatella, tuttora esistente, ma non so di questi tempi cosa proponga. Allora, insomma, c'erano dei bei concerti, appunto i Tuxedo Moon. Contento che Nicola abbia scoperto, credo proprio attraverso me, i Tuxedo Moon, ne sono orgoglioso, e a lui come a tutti consiglio soprattutto la discografia che va dal primo lavoro Half Mute del 1978 fino a tutti i lavori usciti negli anni 80. I lavori successivi sono opinabili, secondo il mio modestissimo giudizio, ovviamente. Andiamo avanti, altro pezzo di storia, Throbbing Gristle, uno degli ultimi lavori prima della dipartita anche di Peter Christopherson e quindi dello scioglimento praticamente del gruppo stesso. L'album si chiama The Third Mind Movements. E sentite ancora il violino di Annabel Lee, eccellente violinista, che continua ancora a affascinarmi mentre parlo. Daxis, Absinthia Tetra, album dedicato all'assenzio, così consumato da poeti maledetti e dintorni nei secoli scorsi. Tornando a